Geografia del suono è un progetto nato nel 2013 all'Asilo Filangieri di Napoli. Fino all'ultimo appuntamento, il numero 59 del 22 febbraio scorso, poco prima del lockdown, l'obiettivo centrale è sempre stato quello di favorire e incoraggiare interazioni e connessioni tra gli artisti e le artiste secondo modalità orizzontali e mai settarie. La formula di Geografia del Suono prevede che musicisti dall'Italia e dal mondo che fanno un concerto all'asilo vengano anche invitati ad una performance che nasce dall'incontro con artisti locali. La forma che questa interazione ha preso, nella maggioranza dei casi e per varie ragioni, è stata la pratica della libera improvvisazione e della sperimentazione, ma non necessariamente. In alcuni casi, grazie all'opportunità della residenza, gli artisti hanno potuto rielaborare collettivamente canzoni, composizioni o progetti di più ampio respiro. Forse però la cosa più importante è un'altra. In tutti questi anni si è costruito un pubblico sempre più esteso, appassionato e attento a favore della ricerca musicale veicolata da Geografia del Suono. Cosa ha generato questo entusiasmo, questa attrazione a livelli per molti versi inediti? Crediamo innanzitutto la percezione di essere di fronte a una modalità altra del fare, la quale viene messa in scena assieme a tutto il resto e fa, da lì, partire un contagio. Per cui, invitandovi all'ascolto, vi invitiamo anche alla stessa attenzione e cura nei confronti del delicato processo di relazione tra i musicisti visti sul palco dell'asilo, che il pubblico di Geografia del Suono ha da sempre scelto di avere. Qui ascolterete dei brevi estratti dai concerti, ma potrete ascoltarli per intero sul profilo Mixcloud e sul sito dell'asilo, cercando Geografie del Suono. Il Lars Field Trio della Danimarca incontra Marco Messina e Pietro Sant'Angelo. Geografie del Suono 34 del 20 gennaio 2017. Thank you. essere stato uno dei primi appuntamenti di geografia del suono, il concerto del Decibel Ensemble di Perth rientra tra quelli che sono stati preceduti da una residenza. Grazie a questa, nei giorni precedenti, la formazione australiana poté lavorare assieme a un nutrito gruppo di musicisti e danzatrici di Napoli a un'interpretazione delle 8 variazioni di John Cage. Il Decibel New Music Ensemble dell'Australia incontra diversi musicisti da Napoli. Geografia del suono 4 del 6 dicembre 2013. Party. world's largely dead weight. Robin Hastings in Mexico, first the main headlines. Crowds of people are still thronging the streets in South Africa more than 24 hours after the death. Around 2050 on the ship. He is now at peace. Our nation, as long as his gracious son, train our people. Have lost one. Along with Walter Sisulu and Oliver Tambo. During the 1950s and early 60s, Mandela was repeatedly arrested and in 1956 when he was charged with high treason. He sort of resented their absence. He used to channel this anger. I was going for all the various places. You hear me? There are many people who feel that it is useless and futile for us to continue talking peace and murder against a government whose reply is only savage attempts. The CIA played a role in the establishment. In 1990, an unidentified retired official who said a senior CIA officer told him shortly after his arrest, quote, "We turned Mandela over to the safety and security branch. We gave them I Death Roars da Roma incontrano Mimmo Fusco e Peppe Vietri per Geografie del Suono del 26 febbraio 2016. Thank you.

Bob Ostertag de San Francisco incontra il collettivo Nise di Napoli. Geografia del suono 19 del 16 maggio 2015. De San Francisco e Erika Sollo da Torino incontrano il collettivo Nise di Napoli. Geografia del suono 33 del 13 gennaio 2017. Thank you. Thank you. Paolo Sanna e Giacomo Salis da Cagliari incontrano Lion Ensemble da Roma, composto da Andrea Liberati, Shelly Bisirri e Mauro Pallagrosi. Geografie del suono numero 53 del 19 ottobre 2018. Thank you. Ossatura da Roma incontrano Guru da Napoli. Geografia del suono numero 25 del 1° aprile 2016.